Radio Wombat. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Come recita ormai lo storico jingle, sei su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. Torno a parlarvi ogni tanto perché questa puntata è veramente speciale. Vi ricordate Villa Parsec Song Club che vennero in regia mesi fa a fare un live con i vinili? Qualche mese fa, non mi ricordo di preciso, e beh, loro mi hanno contattato e mi hanno detto ci farebbe piacere fare un'altra serata. Ovviamente la serata alla radio non si può fare e dunque mi hanno spedito un mix fatto appositamente per Radio Wombat. Chi sono loro? Villa Parsec Sound Club sono la Kame e THX, ormai abbastanza conosciuti a Firenze e anche fuori Firenze. Lei disegnatrice, lui più dedito ormai da tantissimi anni alla musica sperimentale, all'hip hop, a qualsiasi forma interessante a livello sonoro, di suono, di rumori e di melodie, insomma. Più che altro di interessatissimo di elettronica, di synth, insomma le cose che ci piacciono a noi in questa trasmissione. Dunque ci hanno proposto questo mix che vi metterò integrale. Vi leggo quello che mi hanno mandato, che lo trovo interessante. Allora, questo è il nostro primo mixato registrato insieme dopo la quarantena. Ci abbiamo messo dentro tutte quelle tracce che avevamo voglia di suonare da un po' di tempo, quindi è denso di sentimento. Le atmosfere dark rispecchiano l'esperienza di interminabile crepuscolo di questo strano periodo di distanziamento. Avevamo degli arretrati belli corposi da mixare, speriamo di tornare presto a suonare davanti a un pubblico. Vi ricordo un po' di link utili per sentire Villa Parsec Sound Club, gli altri mix che hanno fatto nel corso del tempo. Allora, li potete trovare su www.mixcloud.com/Villa Parsec Sound Club e poi anche vi dico anche un altro link che è la pagina della rubrica di Villa Parsec Sound Club all'interno del collettivo Mamma Aiuto. Se ne parlò insieme a loro anche qualche mese fa quando vennero in regia. All'interno di questo sito potete vedere, in questa parte di sito, potete vedere anche i video in timelapse dei disegni delle copertine fatte dalla Kame. E il link è www.mammaaiuto.it/category/soundclub, ma poi insomma poi lo ritrovate. Intanto guardatevi anche semplicemente mammaaiuto.it in tutte le sue sottopagine, che è proprio un bel sito. Allora vi lascio, noi ci sentiamo per la settimana prossima. Questo è il suono di Villa Parsec Sound Club, la Kame e THX, che hanno fatto il primo live mixato insieme dopo la quarantena. Ciao.

Yeah. Thank you.